Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. La storia alla fine presenta sempre il conto, sia pur con decenni di ritardo. Alla vigilia di un nuovo 25 aprile e 66 anni dopo le stragi nazifasciste compiute prima della conclusione della Seconda Guerra Mondiale, molte condanne sono state inflitte agli ex gerarchi nazisti che trucidarono uomini, donne e bambini a Marzabotto, a Sant'Anna di Stazzema e in molti altri centri ancora, soprattutto dell'Appennino tosco-emiliano. Molte sentenze sono state emesse, ma molte di più sono quelle mai arrivate dopo la morte degli imputati chiamati in causa con decenni di ritardo, cioè solo dopo la scoperta nel 95 del cosiddetto armadio della vergogna. Non accertare le responsabilità significava ucciderle due volte, riflette Marco De Paolis, il procuratore militare attualmente a Roma, prima alla Spezia, che più di tutti ha portato avanti le inchieste su questi eccidi. A giorni si aspetta anche il verdetto della Corte Europea dell'Aia sul risarcimento stabilito dalla Cassazione per i familiari dei morti di Civitella. Se dovessero accogliere le nostre richieste, molti altri citeranno Berlino come responsabile civile, anticipa De Paolis, che parte facendo un quadro dei processi ancora aperti. Attualmente noi abbiamo un processo nella fase dibattimentale a Verona che proviene dalle indagini della Spezia, che riguarda una grossa strage compiuta dalla divisione Mangheling sull'Appennino tosco-emiliano. Mi riferisco agli episodi di Stia, Vallucciole, di Santa Maria Serelli e Montefalterone, Montemorello per il versante toscano e Monchi, Susano, Cervarolo e Costignano per quello modenese e reggiano. E questo è un processo che vede imputati attualmente 12 ex appartenenti alla divisione Hermann Göring. Poi c'è un altro processo che si è aperto proprio l'altro ieri a Roma, c'è l'udienza preliminare per la strage del Padule di Fucecchio. Anche qui ci sono vari imputati appartenenti a una divisione della Wehrmacht. E poi in fase di indagine ci sono ancora alcuni procedimenti sia nella zona toscana che per fatti avvenuti sia in Toscana sia nell'Alta Italia, in Piemonte e in Veneto. Tutto è partito in ritardo per colpa appunto di quel famoso armadio della vergogna ritrovato soltanto nel 94. È possibile avere un'idea, diciamo, di quanto questo ritardo abbia pesato nella mancanza, nell'impossibilità di fare luce fino in fondo o comunque di portare a termine procedimenti giudiziari riguardanti quelle stragi? Beh, certo, quell'occultamento ha determinato di fatto una inattività, l'impossibilità di procedere per oltre 40 anni nei confronti dei responsabili. Poi quanto, diciamo, sia stato determinante anche il silenzio che lo ha accompagnato, questo, diciamo, è una domanda a cui sicuramente io non posso rispondere, ma che però, ecco, ha trovato un ampio dibattito nella storiografia, ecco, nell'attualità di questi ultimi anni. Che vuol dire? Si stava arrivando all'oblio senza poter venire a capo della situazione. Ecco. Lei ha ricordato il processo che è appena iniziato a Verona, quello appunto per la strage che avvenne nel borgo di Vallucciole, nel comune di Stia, che riguarda l'uccisione di oltre 350 italiani. Questo processo avviene a Verona dopo la chiusura della procura della Spezia. Ci fu anche un gran dibattito, ci furono anche dei costituzionalisti che avevano chiesto invece che questo non avvenisse e si paventarono anche dei rischi concreti che appunto il lavoro avviato alla Spezia in qualche modo potesse non essere portato a termine. Oggi che questa chiusura è avvenuta, è in grado di in qualche modo darci una valutazione sua sugli effetti che questa chiusura potrebbe aver avuto? Degli effetti negativi li ha avuti senz'altro, per esempio, per questo processo, perché se noi non non ci fosse stata la soppressione della sede di La Spezia, il processo avremmo concluso 2 anni fa e avremmo avuto in vita 4 fra i più importanti imputati di questo processo, che sono invece deceduti poco tempo fa. Quindi si sono verificati poi degli inconvenienti sensibili anche riguardo di altre indagini che sono rimaste ferme per un po' di tempo, per esempio quella per le stragi di Fragheto, di Casteldecce e Taulicci di Verghereto, dove il tempo perduto non ha giovato alle indagini. Proprio perché si parla di fatti così lontani nel tempo, è di fatto una corsa contro il tempo per riuscire ad arrivare ad una sentenza, mentre appunto ci si trova di fronte imputati ultra novantenni. C'è stato un dibattito che più volte è stato riaperto sulla necessità o meno di portare in carcere appunto gli ex funzionari nazisti dell'epoca. In particolar modo, diciamo, se ne è parlato a proposito della vicenda Priebke, che poi in fondo è tra i pochi che è stato arrestato. Tra l'altro le sentenze ricostruiscono i fatti, ma soprattutto attribuiscono delle responsabilità. Quindi quello che è fondamentale, perché la ricostruzione storica dei fatti è stata già effettuata dagli storici, quello che invece di cui avevamo bisogno era l'attribuzione delle responsabilità. Certo. E a mio parere immorale e eticamente inaccettabile avere la possibilità di individuare delle persone responsabili di crimini così importanti, così efferati, oppure essere a conoscenza di queste responsabilità, perché sono scritte in documenti che erano stati occultati, e non affermare la responsabilità di queste persone. Questi morti vengono uccisi una seconda volta in questo modo, credo. Detto questo, poi il problema dell'esecuzione della pena va affrontato secondo le regole ordinarie del nostro ordinamento, quindi se c'è una possibilità dovuta alle condizioni di salute, ecco, e le condizioni di legge, i presupposti di legge ricorrono, allora si deve far luogo all'esecuzione penale. Se questo non è possibile per l'età o per le condizioni di salute dei condannati, non si fa a somiglianza di quello che accade nei processi ordinari. Bisogna cercare, ecco, di essere obiettivi in queste circostanze senza lasciarsi condizionare da fattori esterni. Il nostro unico punto di riferimento deve essere sempre la legge. E proprio a proposito di esecuzione della pena, per l'eccidio di Civitella in Toscana, 203 persone trucidate anche in questo caso da funzionari dell'SS, la Cassazione ha fissato tempo fa anche un risarcimento chiesto alla Germania a favore dei familiari di 2 di queste vittime, una decisione a cui appunto il governo tedesco si era opposto e che aveva anche sollevato una sorta di caso diplomatico. Innanzitutto, lei sa come è andata a finire? Noi siamo in attesa di conoscere l'esito del giudizio che la Corte internazionale dell'AIA darà, perché la Germania, a seguito delle condanne inflitte prima dal Tribunale Militare di La Spezia, poi dalla Corte, confermate poi dalla Corte Militare d'Appello di Roma, e quindi sanzionate dalla Corte di Cassazione, ha fatto un ricorso presso la Corte dell'AIA, e qui l'Italia anche si è costituita, e entrambe le nazioni si sono rimesse al giudizio della Corte Superiore e il fatto di riconoscere quello che sarà il verdetto. Questa decisione ancora non c'è, e quindi non sappiamo come in concreto si regolerà la Germania in caso di giudizio positivo da parte della Corte dell'AIA. Ecco, credo, per quello che mi risulta, che questa decisione non tardi a venire. Tra l'altro noi la stiamo attendendo anche con molta impazienza, perché proprio nel processo di Verona ci sono più di 300 parti civili costituite e che nella prossima udienza hanno preannunciato, chiameranno in causa la Germania quale responsabile civile, quindi è particolarmente urgente la decisione dell'AIA. Una decisione che potrebbe spalancare a tutta una serie di richieste di risarcimento. Si era parlato anche della possibilità che questo risarcimento potesse essere chiesto anche per i deportati nei campi di concentramento. Sì, perché infatti questa vicenda originariamente era nata proprio in un giudizio civile. Un cittadino italiano della provincia di Massa, deportato in Germania, aveva diversi anni fa intentato di fronte al Tribunale Civile di Massa, e si trattava proprio di un caso di deportazione, quindi ci potrebbe essere anche questo. Però terrei distinte le cose, perché le fattispecie sono sostanzialmente diverse, e il giudizio ora che pende all'AIA attiene soltanto al nostro caso, cioè dei crimini di guerra commessi appunto in occasione dell'occupazione bellica del nostro paese da parte della Germania. Tutti noi siamo quello che ci hanno insegnato ad essere. 3.622 vittime solo in Toscana a fine del 1944, 770 soltanto a Marzabotto. È una storia di eccidi quella che si consumò soprattutto nei paesini dell'Appennino tosco-emiliano negli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale. Una successione di stragi ricostruita dagli storici e completata in molti casi dai giudici con i nomi e cognomi dei responsabili. E alcuni processi sono ancora aperti, come quello per la strage di Vallucciole, dove centinaia di familiari delle vittime stanno per citare la Germania come responsabile civile e anche per questo aspettano il verdetto della Corte dell'Aia su un'altra vicenda, come ci ha anticipato nella prima parte Marco De Paolis, procuratore militare che ha portato avanti molte inchieste con contatti stretti anche con altri stati. Ci sono stati dal dopoguerra ad oggi numerosi processi in Olanda, in Francia e anche in Grecia recentemente per crimini di guerra commessi durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, procuratore, quello che colpisce un po' guardando tutte le l'iter, diciamo, di questi vari processi, delle inchieste anche che sono state fatte, sono storie diverse accomunate dalla drammaticità dei fatti in sostanza, ma accomunate anche da una simile condotta degli imputati, se non mi sbaglio. Beh sì, tranne probabilmente proprio qualche rarissima eccezione, gli imputati non hanno mai collaborato, sicuramente non hanno mai mostrato segni di pentimento, questo è vero, ecco, questo spiace doverlo riconoscere. Nonostante il tempo passato, ecco, la risposta per chi l'ha data, perché poi molti invece non l'hanno neanche fatta arrivare, è stata: eravamo in guerra, non era nostra responsabilità, giusto? Sì, in sostanza sì, molto spesso neanche questo, perché molti non hanno proprio risposto, insomma, però ecco, possiamo dire che nella globalità, diciamo, l'atteggiamento è quello di guardare le cose della guerra, diciamo, in un contesto nel quale poi tutto si scolora, diciamo, e viene un pochino giustificato dalla necessità bellica. Dall'altra parte invece quello che lei nelle varie requisitorie ha voluto sottolineare e affidare in questo caso ad una conferma di tipo giudiziario era anche come tutti quegli eccidi fossero spesso vere e proprie azioni punitive. È un lavoro che porta un po' anche a rivedere il proprio rapporto con la storia del nostro paese, doversi occupare per così tanto tempo di queste vicende? Beh, insomma, sotto l'aspetto personale posso dire che sicuramente è molto, molto gravoso, diciamo, avere per così lungo tempo a che fare con fatti così tragici, quindi è un'immersione, ecco, nel dolore, nell'orrore molto, molto pesante. Senz'altro, diciamo, è una pagina forse che non si conosce adeguatamente della nostra storia della Seconda Guerra Mondiale, perché tutti forse, poiché normalmente sono più famose, si parla sempre delle cose che avvengono in città e non in campagna. Il nostro pensiero, quello, parlo, ecco, di una persona che come me che ha 50 anni, quindi che è cresciuta, diciamo, con cultura, ecco, nella quale, diciamo, il crimine di guerra per antonomasia era quello delle fosse ardeatine, perché era avvenuto a Roma, ecco, si ignorava completamente quello che è avvenuto poi invece nelle campagne, nei piccoli centri, dove decine di migliaia di persone sono state, di civili sono state uccise, massacrate. E a lei hanno affidato molti ricordi anche i sopravvissuti o i familiari di quelle vittime che avevano sentito, appunto, tramandate nelle storie delle loro famiglie, appunto i racconti e le conseguenze di quegli eccidi. Lei ha potuto incontrare anche alcuni di quei testimoni proprio? Li ho incontrati quasi tutti, perché per anni, appunto, ho svolto queste indagini insieme ai carabinieri, ai finanziari del mio ufficio, e li abbiamo ascoltati tutti quelli che erano in grado di parlare, quindi è stata una ricostruzione molto, molto approfondita, ed è stato appunto anche un contatto umano ad altissimo valore. Ecco. Le posso chiedere, ecco, nei loro racconti, che immagino neanche il tempo possa in alcun modo sbiadire. Cos'era? Se c'era un elemento comune che facesse ancora di più capire quanto quelle azioni, quelle stragi, quegli eccidi fossero appunto proprio crudeltà voluta da quei gruppi di nazisti, da quelle squadre, fossero proprio delle azioni mirate. Quello che è venuto fuori da questi processi, che in parte era stato ben delineato già dalla ricerca storiografica, è il fatto che in Italia, come nell'est europeo prima, pochi anni prima, la politica militare nazista era una politica di sterminio e terra bruciata degli oppositori al regime. Quindi questa strategia è stata applicata in Italia utilizzando quali strumenti quei reparti di nazisti, cioè di formazioni armate che erano composte prevalentemente da nazisti e che erano le uniche persone che potevano avere la capacità, la possibilità di compiere dei fatti, dei crimini così gravi che un militare ordinario difficilmente riesce a compiere. E anche le modalità che si sono ripetute in moltissimi di questi paesi, di queste strage. Le modalità con cui sono avvenuti questi fatti evidenziano appunto proprio anche una circostanza, cioè che per poter uccidere a sangue freddo persone inermi come bambini, donne, come persone anziane, occorre una personalità così negativa che solo persone aduse alla violenza o comunque a disvalori quali quelli del nazismo potevano avere. Gli ufficiali incoraggiavano, tanto è vero, faccio l'esempio delle fosse ardeatine in cui lo stesso Kappel e gli altri ufficiali hanno dovuto dare l'esempio sparando, perché altrimenti ci sono stati quelli che sono svenuti per l'orrore, tra i carnefici che sono addirittura svenuti per l'orrore, e questo è avvenuto anche in altre circostanze. Ma in tutti questi anni in cui lei si è occupato di stragi nazifasciste, non c'è stato mai nessuno degli imputati che ha voluto scriverle, che ha voluto in qualche modo, diciamo così, anche liberarsi il peso dalla coscienza, o che ha voluto casomai incontrare qualcuno dei superstiti o dei familiari delle vittime? Ma noi abbiamo avuto solo un paio di persone, uno dei principali testi nel processo di Sant'Anna, Beckert, che venne in Italia, diede il suo contributo in aula rilasciando una drammatica deposizione, e poi volle andare a Sant'Anna appunto a rendere omaggio alle vittime. E lo stesso anche un altro militare tedesco, un altro testimone, non imputato, che per la strage di San Polo di Arezzo, che anche lui volle portare dei fiori sul luogo dell'eccidio. Ma si tratta di casi isolati, insomma. Anche uno degli imputati della strage di Sant'Anna mi scrisse una lettera in cui cercava di giustificare la sua estraneità, o prendeva le distanze da questo fatto, però era anche una dichiarazione poco sincera, perché si prendeva le distanze da un fatto che però si è rifiutato di descriverci. Quantomeno omertoso, diciamo. Sì, quello che mi ha personalmente mi ha sempre un po' stupito il fatto che, nonostante tutto questo tempo sia passato, quindi parliamo di persone che hanno più di 80 anni, che ormai si avvicinano al termine della propria vita e quindi dovrebbero avere una visione delle cose ben diversa dalla nostra, che rifiutarsi anche in questo momento, anche a questo punto, di liberare la propria coscienza di contribuire all'accertamento della verità, mi sembra veramente incomprensibile. Hanno creato un dibattito alcuni film intorno alle stragi, prima quello di Spike Lee, Miracolo a Sant'Anna, e poi l'ultimo su Marzabotto, L'uomo che verrà. Le volevo chiedere se li ha visti e se su questo anche delicato rapporto della trasposizione cinematografica, e quindi anche in alcuni casi romanzata, cosa ne pensa? Si tratta di due film completamente diversi. È molto difficile realizzare dei film su questioni come queste. E a me è piaciuto molto il film di Diritti, sull'uomo che verrà, e credo che abbia affrontato questo tema difficile e delicato con molta delicatezza, insomma. Peraltro anche molto fedele, insomma, nella ricostruzione e nelle storie. Molta sensibilità, quello ho percepito anche io, sì, forse sì. Al contrario di quello di Spike Lee. Beh, lì siamo un po' fuori tema, È difficile che ci siano delle guerre giuste, però qualche volta le guerre vengono anche combattute per liberarsi da un oppressore o per liberarsi da crimini, da soprusi. Ho il timore che il messaggio di quel film possa indurre a pensare che fosse il regista abbia sbagliato guerra. Ecco. Come sempre potete riascoltare questa come tutte le altre storiacce sul sito radio24.it. Scrivetemi. Ciao, a sabato.